18 minuti e 25 secondi, inizia la terza parte di 24 mattino di martedì 15 dicembre. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Alle 8.35 parleremo col presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, di questa questione di un nuovo lockdown, di una zona rossa nazionale che si sta ipotizzando in queste ore per il periodo natalizio. E poi sarà con noi Ettore Rosato di Italia Viva per capire un po' che cosa succederà oggi nell'incontro tra Renzi e Conte, se è stato tutto un fuoco di paglia oppure no. Chissà che ne dice il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci. Beh, io sono così un po' scosso dalla lettura dei giornali di oggi, che una serie di marrovesci, di ceffoni a Renzi, unanimi devo dire, non ho trovato articoli che lo difendano, che questo incontro di oggi che tu hai annunciato, che doveva essere una sfida all'ok Corrale, invece sembra che la crisi sia risolta, forse non ci sarà neanche un rimpasto, non lo so, i giornali dicono che tutto si ridurrà a una conferma in Consap, che è la partecipata che cura le assicurazioni, di Mauro Masi, che è un amico di Gianni Letta, un ex direttore generale della RAI, qui quota Berlusconi, e la nomina amministratore delegato di un signore che è vicino al renziano Davide Serra. Insomma, aver fatto tutto questo bailamme per qualche poltrona che passerà inosservata nei giornali mi sembra, anche a me sembra davvero eccessivo, però i giornali si occupano soprattutto, c'è un altro coro unanime. Allora, primo quello a dire Renzi ci hai disturbato, e il secondo è dire ma come, voi ci mandate prima col cashback nei negozi, ci dite deve riprendersi, in primo buono viene l'economia, ci esortate, ci dite che se non andiamo tutti insieme nei negozi non verrà dato questa 10% in denaro in restituzione, e poi ci che vergogna, tutti che fanno nei negozi, un popolo incivile, che una pretendi? Forma di populismo all'incontrario, dice ma dateci delle indicazioni omogenee, e in effetti questo coro non ha torto, nel senso che le indicazioni da parte del governo sono così intermittenti, ondivaghe, sono strane, e questo influisce anche sulla politica. Comunque oggi, se devo darti il termometro, Conte appare fortissimo. Scusami Paolo, perdonami, solamente questo, perché mi sembra eccellente su questo fronte il buongiorno di Mattia Feltri oggi sulla Stampa, e non ho avuto tempo di leggere in rassegna, però do agli ascoltatori il punto. Mette in campo le due idee, no? Chi dice da una parte che con questa storia del cashback eccetera eccetera il governo di fatto ci ha spinto ad uscire, ad andare per le strade, altri dicono che siamo delle pecore che si ammassano tutti quanti. Conclude Feltri, dice: sarò cerchio bottista, siamo un popolo di pecore condotte da pastori che non sanno dove andare, che non è male, non è male, non è male. È l'immagine migliore che si potesse dare, quindi tanto rumore per nulla. E Conte saldo, dice, Conte saldo, dici. Beh, Conte, insomma, poi in Italia nulla è definitivo, bisogna aspettare giorno per giorno, però devo dire anche persino Salvini è stato ricondotto all'ordine con l'accusa di aver flirtato sotto banco con l'idea di Renzi di mandare tutto all'aria. Lui si difende, dice ma se quello diceva che mandava tutto all'aria, ma insomma la Meloni lo bacchetta e tutto torna in ordine. Domani Stefano Folli è molto duro con Renzi, dice ne va la credibilità, non perché abbia fatto, può capitare a chiunque di fare un errore, ma questa è la terza o quarta volta che lui chiama le armi e poi alla fine fa un passo indietro. Sì, intanto insomma le cose dell'epidemia vanno avanti. Segnalo che Fabrizio Pregliasco sul Messaggero dice che la riapertura delle scuole è a rischio. Io le dico a futura memoria queste cose, in modo che ce le ricordiamo, e che la terza ondata è inevitabile. Io proporrei di non chiamarla più terza ondata, perché se la seconda è alta, un conto è dire che sia fermata e c'è stato un periodo di tregua come è accaduto quest'estate, poi parte la terza ondata, ma adesso con questo record di morti, di ammalati, non mi pare. Insomma, mi pare è la prosecuzione, di fatto la prosecuzione della seconda ondata, cioè non è nemmeno più la terza ondata sostanzialmente. Vabbè, comunque, dibattito. Se... E passiamo ad altro. Sì, dai, sì, dai, la Paolo, politica è questo, e attendiamo le decisioni del governo sull'eventuale stretta natalizia. Paolo, ti vorrei portare ancora sulla vicenda restituzione della Legion d'Onore, Augias e via dicendo, perché oggi ci si scatena, no? E si tira fuori tutti quelli che hanno ricevuto la Legion d'Onore, c'è di tutto: Romano Prodi, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Roberta Pinotti, cioè, no, un po' tutti quanti, ovviamente Emma Bonino, che oggi scrive un articolo sulla Stampa parlando proprio di questo e dicendo che non la restituirà sostanzialmente. E poi non so se hai visto, sì, li chiamano per nome e cognome, soprattutto i giornali di destra, La Verità, che fa una lista di tutti quelli che hanno preso la Legion d'Onore, dice: e voi perché non la restituite? Come mai, dicono, la nostra sinistra ama solo la patria francese, la nostra non l'ha? E poi però c'è un piccolo esercito che era già in movimento ieri, l'abbiamo segnalato, di quelli che la restituiscono: Giovanna Melandri, Sergio Cofferati, Luciana Castellina. Però a questo punto, mancando i grandi, Prodi, Veltroni, si aggiungono nomi. Adesso ti faccio un piccolo esame. Una che l'ha restituita è Rossana Rummo. Chi è Rossana Rummo? Lo sapevo che ti ho preso impreparato. E poi l'ha restituita Emilio Gabaglio. Chi è Emilio Gabaglio? Ecco. Insomma, c'è la sua punta della lingua. Lo so. L'ho fatta apposta, guarda, per metterti in imbarazzo. Rossana Rummo, direttrice dell'Istituto di Cultura a Parigi, Emilio Gabaglio, l'ex segretario della Confederazione Europea dei Sindacati, che la ricevette una ventina d'anni fa, la Legion d'Onore. Però anche questo non ti dico, Giuliano Ferrara stamattina sul Foglio, quanto è sferzante, fino quasi a essere offensivo nei confronti di Augias, sì. Dice che è un vanitoso, un vanesio, e che insomma forse difende quelli che fanno gesti privati. E poi in generale tutti sottolineano questo: ma la Francia hanno fatto elicotteri crudi, questi hanno preso la Legion d'Onore mentre appunto la Francia ne faceva di cotte di crude, e adesso si svegliano su questa cosa. E poi perché il governo non se la prende lui con lo Stato francese, visto che sono tutti esponenti della sinistra, premano con il governo perché protesti ufficialmente, non già con quelle proteste rituali nei confronti dell'Egitto, ma che protesti con la Francia e abbia il coraggio di puntare, sbattere i pugni sul tavolo e dirgli: ma perché hai dato la Legion d'Onore ad al-Sisi? Non tutti i torti hanno, perché sì. Io l'ho detto già ieri, ricordo e te lo ripeterò. Sì. Secondo me l'episodio di Augias, che era un episodio nobile, era meglio che fosse circoscritto, ma il movimento dei restitutori della Legion d'Onore finisce sul Rummo e Gabaglio. I no legione d'onore. Però guarda che nel frattempo in Italia ne succedono di cotte di crude. Lì c'è un dimettiti alla Università per Stranieri di Perugia, dopo il caso Suarez, prima il caso Ronaldo. Prima si era dimesso quel professore che aveva fatto l'esame, si tratta di stranieri a cui fanno un finto esame di italiano per dire che sono italiani, quel professore Lorenzo Rocca. Ma ieri si è dimessa addirittura la rettrice Giuliana Fregobolli. Insomma, lì gli abitanti di Perugia o gli interessati all'Università per Stranieri sta saltando in aria l'Università di Perugia, sta saltando la Calabria, è senza pace, la stiamo seguendo. Ieri hanno arrestato un consigliere del PD Antonio Castorina, perché aveva fatto delle schede false, non è accusato, si capisce. Accusato, guarda Paolo, morti, Paolo, me la son letta bene. È accusato di aver preso i certificati di voto, i certificati elettorali di una serie di ultraottantenni che erano nelle residenze per anziani, e aver fatto votare con questi certificati evidentemente dei suoi amici, tramite poi degli scrutatori a loro volta amici e via dicendo, però quattro di questi anziani non c'erano più al momento del voto, e quindi i magistrati l'avrebbero pescato. Questa è la storia, questa è l'ipotesi di accusa, la teniamo là perché è l'ipotesi di accusa. Se risponderà che queste cose si fanno perché lì era una lotta per il sindaco di Reggio Calabria, fondamentale per la vittoria della sinistra contro la destra, e quindi anche questo è buono. Però anche la Lega c'ha le sue grane, la stai seguendo, c'è un'inchiesta del Fatto Quotidiano sì. tutti i giorni, perché la Lega imponeva almeno fino al 2019 il pizzo del 15% su quelli che faceva i nominati, insomma quelli sì. che metteva in poltrona, e diceva che pagare il 15% è un dovere morale. Che sistema è questo, il dovere morale? Cioè, questa è una cosa veramente al limite, insomma, al limite di pagare una tassa sulle nomine, sì. Allora si potrebbe pagare una tassa eletti. Anche sulle nomine a ministra. Non erano certo. eletti, erano direttori generali delle ASL, nei consigli di amministrazione partecipate e via dicendo. Paolo, a proposito di Lega, scusami, ma l'hai vista questa storia di Ferrara che sta creando un mal di pancia nel centro-sinistra e nella sinistra pazzesco, perché hanno nominato a Ferrara direttore del teatro di Ferrara, che è amministrata dalla Lega, Monio Vadia, quindi un'icona della sinistra, un'icona della sinistra. Sul suggerimento di Sgarbi, la cosa che mi ha colpito è che Monio Vadia è felicissimo, è veramente incontenibile, ed è un abbraccio col sindaco leghista. Il sindaco leghista è felicissimo, e la sinistra, come hai letto bene tu tra le righe, qualcuno fuori dalle righe, è in grande imbarazzo, perché insomma, diciamo la verità, il personaggio è Monio Vadia, ma è Vittorio Sgarbi che ne ha combinato un'altra delle sue. Riesce ogni giorno, io non capisco come fa quell'uomo, benedetto critico d'arte, ogni giorno trova una cosa per far saltare i nervi a qualcuno. In questo caso li ha fatti saltare. Anche la destra non è contentissima, perché poi c'ha quei suoi lottizzati a cui far pagare il 15%, almeno fino al 2019. E quindi bisognerà vedere se Monio Vadia A se è pagato e B se paga il 15% nelle case di Salvini. Io non credo, però certo è una situazione curiosa. Va bene, vedremo come evolverà questo riflesso condizionato quando un uomo di sinistra si presta al lavoro per un'amministrazione di destra. Paolo, ci sentiamo domani. Ciao. Ci sentiamo domani. Ciao. Ciao. Le 8 e 35 minuti, 35 minuti e 24 secondi, va, diamola tutta. Buongiorno Giovanni Toti, presidente della Liguria. Eccoci Toti, come stai? Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, la convince l'ipotesi di una stretta ulteriore sotto Natale? Ma guardi, poco, nel senso che non è coerente il metodo che ci siamo dati fino a questo momento. Mi convince una stretta laddove serve, così come mi convince un allargamento laddove è possibile. Questo è il metodo che abbiamo dato al Paese, quelle famose zone di rischio su cui abbiamo anche discusso molto quando sono partite, e anche per cercare di tararle poi durante le vacanze. Ora, cambiare totalmente metodo, io credo che sia qualche cosa che non dà molto senso e non dà continuità alla politica che abbiamo scelto, oltre a una certa dose di ipocrisia che ho sentito in questo fine settimana, come sottolinea anche qualche editorialista sui giornali questa mattina. Se uno apre negozi, se uno apre ristoranti, se uno apre i bar, se uno fa pure la lotteria per chi paga con la carta di credito, in qualche modo io immagino che si voglia incentivare i cittadini ad uscire, comunque vivere il periodo natalizio dando anche una mano e un po' di fiato a quel commercio, a quella ristorazione, a tutte le filiere che ci stanno dietro che sono in difficoltà, che lo facciano ovviamente rispettando le regole. Se poi si vede tanta gente in una strada con le mascherine ordinatamente ci si spaventa, penso faccia parte di quella pandemia emotiva che abbiamo già visto nel nostro paese anche quindi, troppo. Quindi lei non intravede un rischio sanitario in questo, Toti? Ma no, io intravedo sempre dei rischi, per l'amor del cielo, non bisogna banalizzare. Sappiamo che dobbiamo lottare col coronavirus, sappiamo che ne avremo ancora per un certo periodo di tempo, credo che si debba fare, come d'altra parte sta facendo il commissario Arcuri, un'accelerazione sui vaccini, e spero che arrivino al più presto, ma intravedo anche un rischio gigantesco, clamoroso, forse sottostimato per la nostra economia e soprattutto per alcuni settori di quella. Quindi non è una battaglia che si gioca su una sola terreno di gioco, quello del coronavirus, è una battaglia che si gioca sul terreno del coronavirus con l'attenzione ai limiti che servono a non uccidere il paese per battere il coronavirus. Quindi lei terrebbe le regole come sono adesso, in sostanza? Io terrei le regole come sono adesso, farei vivere agli italiani le giornate di Natale, raccomandandosi ovviamente con tutte le regole che già ci sono. Non è che mentre ci parliamo io e lei a Natale si prevede di fare i trenini e i cenoni di famiglia o i veglioni a Capodanno. È un paese che comunque si appresta a vivere un Natale, direi, piuttosto compresso dal punto di vista delle regole, tutte le località di vacanza chiuse, il divieto di spostarsi, io spero almeno tra province e non tra comuni, come ho letto, perché sarebbe un'ulteriore ingiustizia, come ho letto, come è scritto fino adesso. Però non mi pare che stiamo andando verso un Natale esattamente, come si dice, è libero di che ciascuno possa fare quello che vuole. È vero però Toti, che quello che è un po' per certi versi è stato il paese guida nella gestione della pandemia, che è la Germania, ieri ha deciso, accordandosi Angela Merkel con i vostri omologhi, anche se hanno qualche potere in più, e non è così facile l'accordo neanche per la però Merkel, l'hanno raggiunto e hanno concordato sul fatto che in una condizione sanitaria che è migliore della nostra, sia dal punto di vista dei posti in terapia intensiva, sia dal punto di vista dei contagi, sia dal punto di vista dei morti, hanno concordato sul fatto che il periodo di Natale bisogna serrare tutto e chiudere anche i negozi. Ma guardi, tanto il lockdown tedesco non è mai stato esattamente come il lockdown italiano. Noi abbiamo vissuto il lockdown di primavera, che è stato sostanzialmente il blocco totale del paese e che è quello che ha dato la prima botta importante all'economia. Sì, però parliamo di quello che avviene adesso, Toti, cioè con i numeri che abbiamo adesso raffrontati a quelli della Germania, quelli della Germania sono migliori e loro decidono di chiudere tutto, anche i negozi. Fino a ieri veramente noi sostenevamo di essere la nazione guida in Europa, diciamo, sulla gestione della pandemia. Non vedo per quale ragione oggi dobbiamo considerare la Germania necessariamente come il nostro benchmark di riferimento. La Germania non ha scelto un sistema come il nostro, la Germania ha scelto un sistema omogeneo di chiusura. Noi abbiamo scelto un sistema, perdonatemi, che prevede delle aree di rischio. Questa è la scelta che abbiamo fatto alcune settimane fa e mi pare che stia dando dei risultati. Nella mia regione, dove abbiamo chiuso prima di altri, oggi l'R con T è più basso di quello tedesco, più basso anche di quello medio italiano, in altre situazioni si sta soffrendo di più. Allora, si è scelto un metodo diverso da quello tedesco, non il lockdown nazionale, ma lockdown laddove serve, anche molto rigido, e alcune aperture dove invece il virus è più sotto controllo, come alcune regioni d'Italia. Non mi sembra un metodo così né strampalato né peggiore di quello tedesco. Ora, con buona pace della Merkel, che spesso ha preso decisioni anche opportune, ma in questo caso noi abbiamo la nostra strada. Toti, c'è consenso su questo all'interno della conferenza delle regioni? Lei è anche vicepresidente, se non vado errato. I governatori ovviamente rispecchiano le situazioni del loro territorio, come mi pare giusto che sia. In alcune regioni è inutile negare che la situazione è più indietro da un punto di vista epidemiologico e che quindi c'è bisogno di qualche... No, però concordate quello che dico sulla linea generale, cioè sul fatto di mantenere questa schematizzazione nei tre colori. Ci vedremo giovedì. Di base è quello che abbiamo concordato quando abbiamo dato il nostro parere nel DPCM. Adesso vedremo ovviamente se il governo presenterà delle proposte, perché l'altra cosa che appare abbastanza surreale è che questo dibattito avviene su indiscrezioni che provengono da fantomatiche riunioni che si fanno a Roma, ma al momento non c'è sul tavolo una proposta del governo, deve essere chiaro. Anche se la raccomandazione del CTS per una stretta c'è, del Comitato Tecnico Scientifico. Lo immagino che ci sia, perché immagino, avendo fatto giornalista, che i miei colleghi con scrupolo abbiano scritto notizie vere e fondate, ma da un punto di vista formale non c'è stato comunicato niente. Allora, abbiamo parlato del piano vaccinale, Toti, la regione, le regioni sono state coinvolte, la sua regione è stata coinvolta. Abbiamo lavorato anche tutto sabato con il comitato di Arcuri. Le piace la primula? Beh, la primula è suggestiva, Boeri è sicuramente un genio creativo, penso che non sia il primo problema, insomma, la primula. Penso che francamente abbiamo altre cose più urgenti da definire. La prima ondata di vaccini nessuno di noi la vede particolarmente complessa, perché riguarda sostanzialmente il sistema sanitario, il sistema del RSA, come lei sa, col vaccino Pfizer, e quindi dei numeri tutto sommato limitati. Nella mia regione si parla di una sessantina di mila persone, diciamo, da vaccinare, che comunque, se fatto in fretta, fatto nelle prime due settimane di gennaio, come il commissario Arcuri sembra proporre, potrebbe anche ridurre, come dire, l'impatto sugli ospedali di una eventuale possibile seconda ondata, perché è chiaro che se noi togliamo quelli che sono i nostri principali pazienti e i principali soggetti di rischio, poi il virus fa meno male. Quando poi si arriverà alle vaccinazioni di massa, che non è ancora chiaro se è fatto con vaccino Moderna, con vaccino AstraZeneca, con ulteriori dosi di Pfizer, perché su questo c'è ancora... Comunque Arcuri è promosso, Toti? Beh, sta lavorando. Forse gli hanno dato un po' troppe cose. Onestamente non è il tema del braccio operativo su cui tutti quanti ci spendiamo, e credo che non vi sia alcuna difficoltà né a collaborare né a mettere in fila le cose. A me, come dire, quello che preoccupa un po' è l'oscillazione della politica. Perché per vincere una battaglia bisogna avere le idee chiare, una strategia, e perseguirla per un periodo di tempo sufficiente a coglierne i risultati. Abbiamo fatto DPCM e decreti legge all'inizio del mese di dicembre per darci delle regole con cui avremo affrontato questo dicembre. A me sembravano già delle regole molto rigorose e molto strette, soprattutto per alcuni territori della regione, della nazione, dove il virus non è poi così potente. Oggi di colpo, perché la Merkel cambia idea, cambiamo idea anche noi, a me, come dire, il processo decisionale un po' sfugge, un po' preoccupa tutto. Cade il governo? No, non credo. Comunque, se cadesse il governo ci sarebbe un altro governo. Non credo che questa legislatura sia per finire. È una legislatura che, come lei sa, visto il referendum costituzionale, ridurre il numero dei parlamentari, ha degli equilibri politici nei partiti, sì, sia di centro-sinistra che di centro-destra, che non saranno riproposti dagli elettori. No, non si va ad elezioni, secondo lei non si va ad elezioni se cade il governo? A parte che sembra che le cose si siano un po' calmate, però se cade il governo, secondo lei non si va ad elezioni? No, non vedo elezioni dietro l'angolo, e non vedo neanche crisi di governo dietro l'angolo. Vedo, come dire, fisiologici bracci di ferro e qualcuno che magari specula un po' troppo per guadagnare qualche posizione in un momento complessivo, dove invece i toni dovrebbero essere un po' più soft, almeno sulla politica politicata, poi sulle ricette contro il Covid, giusto che ognuno dica la sua. Sì. Grazie Giovanni Toti, Presidente della Liguria. Buona giornata. Oh, e veniamo proprio qua, proprio alla questione politica. Ettore Rosato, Italia Viva, buongiorno, come sta Rosato? Buongiorno, benissimo, bene. Spero che voi. Sì, abbastanza bene, ma è già rientrata la crisi? Cos'è stato? Un fuoco di paglia? Oggi si vedono Renzi e Conte e non succede niente alla fine, o sì? Vedremo. Noi abbiamo fatto delle richieste molto chiare in aula, in maniera trasparente, e a queste richieste attendiamo risposta. Inoltre, in queste settimane è stato fatto un lavoro direi proficuo da tutti i gruppi di maggioranza per individuare diciamo una scaletta di questioni per arrivare al 2023, una scaletta che ha messo in evidenza molte criticità, cioè molti punti su cui la maggioranza non è in accordo, e non riguarda solo, diciamo, il rapporto di Italia Viva con il resto del governo, ma riguarda anche il rapporto all'interno del governo su tantissime questioni. Ma e penso che su questo bisogna che il Presidente del Consiglio provi a costruire una sintesi. Ma c'è ancora qualche possibilità che cada il governo, secondo lei, Rosato? Secondo me le possibilità che cade il governo, che esistono ogni giorno in tutte le legislature, sono identiche a quelle di una settimana fa, né più né meno. Ecco, quindi noi abbiamo fatto delle domande e non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Quando riceveremo le risposte potremo essere... Noi non lavoriamo per far cadere il governo, naturalmente. Ma guardi, io capisco che poi la comunicazione è sempre viziata. Ma se alle 2 di mattina ti arriva il riparto di 230 miliardi di euro, 209 miliardi di euro, che sono il più grande, diciamo, tesoro che avrà l'Italia in questo secolo, perché non ci sarà un'altra occasione in cui ci saranno 200 miliardi disponibili per rilanciare l'economia del nostro paese, e ti trovi che un riparto fatto e che tu la mattina dopo, senza sapere neanche di che cosa si tratta, dovresti approvarlo, beh, qualsiasi forza politica dovrebbe poter dire stop, così non si fa. Stop, così non si fa, bisogna coinvolgere tutta la maggioranza e io dico, noi diciamo, anche le opposizioni. Mi pare, Rosato, che abbiate trovato, devo dire la verità, una discreta spalla questa volta nel Partito Democratico, al di là di qualche dichiarazione un po' dura nei confronti del vostro leader Renzi. Mi pare che anche dalle parti del PD, su come è stata presentata la task force, il recovery plan, eccetera eccetera, un po' di tensione l'abbiano fatta trasparire, no? Che gli altri fanno sempre trasparire un po' di tensione, ma se non c'eravamo noi che mettevamo quel riparto, quella task force con il commissariamento di tutti i ministri era approvata tra gli applausi generali. Cioè, non si può pensare di governare un paese così. Il Premier ha avuto poteri straordinari perché c'è una pandemia straordinaria, ma non è che questi poteri straordinari da usare per la pandemia si possono tradurre in faccio tutto quello che voglio da solo. Peraltro ci sono 15 regioni governate dal centrodestra. Noi non possiamo pensare di ripartire tutte le risorse senza coinvolgere, almeno provare, lavorare, sforzarsi di coinvolgere anche le opposizioni su una cosa che segnerà il futuro dell'Italia per i prossimi 20 anni. E quindi... io penso che su questa vicenda qui bisogna fare. Abbiamo perso un sacco di tempo inutilmente, perché evidentemente qualcuno stava in un salotto a fare i progetti senza dire niente a nessuno. Adesso questo tempo va recuperato con una collegialità che tutti i paesi europei hanno utilizzato. Ma chi c'era tutti in questo salotto? Europei. Chi c'era in questo salotto, Rosato? Non lo so, francamente non lo so. Qualcuno ci sarà. Pensi che ancora oggi non sono noti ai ministri quali sono i progetti che sono contenuti in questo riparto. Ci sono le macro cifre, ma non si sa quali sono i 3 miliardi e 100 milioni. Perché 3 miliardi e 100 milioni sulla cultura e sul turismo? Vabbè, ma scusi, quei progetti l'avranno mandati gli stessi ministri, no? Sì, ma il fatto che il ministro della cultura sappia i progetti della cultura non vuol dire che il ministro della cultura non debba sapere anche quelli dell'agricoltura. Cioè, è un modo di fare che non è conforme alla collegialità di un Consiglio dei Ministri. Non è che stiamo discutendo ognuno del monopolio, ognuno c'ha i suoi soldini e compra le case in vicolo stretto e in vicolo corto. Si tratta di trovare una collegialità per far ripartire il Paese. Bisogna coinvolgere le categorie economiche e le forze sociali in un progetto di questo tipo. Non si può pensare che lo fa un uomo solo. Quindi la nostra obiezione non è un'obiezione di forma, non è un'obiezione di simpatia o antipatia per il Presidente del Consiglio, è un'obiezione profonda di metodo per non sprecare questa straordinaria occasione, perché non ripete più. Tra l'altro, molti di questi soldi, sia chiaro, sono debiti che faremo e che pagheranno le future generazioni, quindi non è che possiamo scherzare con queste risorse. Se non ci saranno le risposte che chiedete, siete disposti a portare all'estremo questo ragionamento e appunto mandare il governo in crisi? Ma noi non vogliamo mandare nessuno in crisi, ma io penso che sia incredibile che non ci possano essere risposte a questo. Noi poniamo dei problemi che sono talmente... Magari ci sono, ma non sono le risposte che volete voi. Quindi noi non vogliamo, sia chiaro, nessuno di noi pretende che siamo noi a scrivere il recovery plan. nessuno di noi lo pretende. Noi pensiamo che come le altre forze politiche dobbiamo, perché neanche le altre forze politiche sono state coinvolte, sia chiaro, sarà stato coinvolto qualche ministro che si è messo a lavorare con che il presidente Conte ha chiamato perché gli faceva comodo chiamarselo, ma non è che le forze politiche o il Consiglio dei Ministri è stato coinvolto. Noi chiediamo che ci sia un metodo trasparente con cui si scelgono cosa finanziare e come finanziarlo, che questo metodo trasparente coinvolga anche le opposizioni, perché riteniamo che non se ne possa fare a meno, ripeto, 15 regioni governate dal centrodestra e i progetti vanno a finire sul territorio, non è che possono essere solo progetti nazionali, e quindi è una questione di metodo, non è che abbiamo bisogno che ci siano 3 miliardi in più su una cosa o sull'altra. Certo, poi abbiamo le nostre cose, ci sembra assurdo che ci siano solo 9 miliardi sulla sanità, ci sembra assurdo che ci siano 3 miliardi sul turismo, su un paese che produce il 13% del suo PIL sul turismo, ci sono delle cose che non riusciamo a capire come possono essere state fatte così in maniera approssimata, ma ne discuteremo nel merito. Sì, oggi Conte in un'intervista alla Stampa, non so se l'ha vista, Rosato, dice tra le altre cose che in realtà il suo metodo è stato il più collegiale che si sia visto finora. Che dice? Cioè, vuol dire che lui e Casalino sono assolutamente d'accordo tutti e due, però se la collegialità dal suo punto di vista si costruisce senza coinvolgere un partito di maggioranza, non parlo per gli altri, evidentemente gli altri se sono contenti così non è un problema nostro, vuol dire che proprio è l'approccio del Presidente del Consiglio che è sbagliato. No, dice, per l'esattezza è il più partecipato che sia stato realizzato negli ultimi anni, queste sono le testuali parole di Conte. Non lo so quali siano i metodi, forse si riferisce al suo governo con Salvini e con Di Maio, che posso capire che per lui ha fatto uno sforzo ulteriore rispetto al governo con Salvini e con Di Maio, ma non riguarda noi. E poi questa situazione straordinaria che sta dando dei poteri straordinari al Presidente del Consiglio non può, cioè noi vorremmo vedere che questi poteri li avesse utilizzati per il vaccino antinfluenzale che non è stato somministrato nel nostro paese, non per distribuire le risorse del recovery plan senza sentire nessuno. Rosato, alla fine non succederà niente dopo oggi, dica la verità. Ma guardi, me la dica lei la verità, nel senso che se lei lo sa, io ne sono contento. No, perché lei dentro i palazzi, è lei dentro i palazzi, io sono qua in uno studio qualcosa. Radiofonico. Io spero che succeda qualcosa, perché io sono... faremo di tutto perché questo governo funzioni, e le assicuro che abbiamo fatto con grande fatica questo ennesimo passo avanti noi perché gli altri non lo fanno, perché ci sarebbe piaciuto vedere o nel Partito Democratico, diciamo, o anche nel Movimento 5 Stelle un moto di orgoglio del dire no ragazzi, non si può fare così. Non si può commissariare abbiamo i ministri migliori del mondo, ha detto Conte, dopodiché prendiamo 6 super manager che li sostituiscono. Allora non sono i migliori del mondo, vuol dire che sono degli incapaci. Una delle due, o sono i migliori del mondo o diciamo o sono degli incapaci. Compresi i vostri, no? Ma non lo so, chiedo Rosato perché. No, io sono orgoglioso delle nostre ministre, io sono molto orgoglioso, per questo non penso che vadano commissariate da 6 super manager che non sappiamo chi sono e che non rispondono agli italiani, perché dopo non vengono i super manager in Parlamento a coinvolgere e a capire e a spiegare che cosa si sta facendo. Saranno super manager che saranno, diciamo, titolati della rappresentanza di interessi che non sono quelli generali. E la Costituzione prevede che certe cose le faccia il Consiglio dei Ministri, non un Consiglio d'amministrazione. Grazie Ettore Rosato di Italia Viva. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Vedremo cosa succederà oggi. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione. In redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ceraffo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata.